Mascarella. Piazza Scaraville. Scaravigli. E Scaravilli. E Scaravilli. E Scaravilli, centro Scaravilli. Sì, Scaravilli. Scaravilli. Scaravilli. Scaravilli. Mi piace stare a piazza per mangiare. Possiamo incontrare qualsiasi persona. E Scaravilli. E Scaravilli, centro Scaravilli. Sì, Scaravilli. Per studiare in 36. In sessione in Zeri. Per studio in Scaravilli. Scaravilli, centro Scaravilli. Sì, via Petroni o piazza Aldrovandi. Per esempio piazza Scaravilli. In Scaravilli. In Scaravilli, centro Scaraville. Sì, a Scaravilli. Aldrovandi. Petroni, in piazza Verdi. Per studio io vado a studiare Bingiani. In Filippo Re. Scaravilli. Scaravilli, centro Zamboni, Giuseppe Verdi. Largo Restighi. Diciamo che il centro a me è un posto forte, diciamo. Serate organizzate per ballare, organizzate dal nulla. 50 minuti di riparazioni. Sistemati Giulia. Scusa, okay, mi stavo un po' intrecciando come un salame. Buongiorno. Buon venerdì mattina. Oggi è martedì pomeriggio. Vabbè, Leo, non si svelano chissà quante i segreti cose succederanno nascosti. Da qua a venerdì mattina. Un sacco di cose interessantissime, ma che noi non potremo anche quelle raccontare. Che raccontiamo oggi sono molto interessanti. Intanto buongiorno, benvenute e benvenuti a 50 minuti di riparazione. Sei così in forma che mi rubi le battute oggi. Sì, sì, ti faccio parlare oggi. Mi sta già tagliando al minuto 0.30. Senti Leo, purtroppo vedo che c'è qua con noi sempre la tua spalla ombra che mi ormai. Ha fatto zoppicare fino a questa puntata, signori e signori, il signor Duccio. Mamma mia. Ale, bello pimpante. Sono qui. La vedo, bello sveglio, sì, bello. Sì, sì. Ha trovato una sedia comoda, è pronto per lavorare. È la caratteristica numero uno per poter accettare un lavoro per lei, signor Duccio. È chiaro, mi sembra, scusi, lei che lavori fa? Beh, tanti, vabbè, senta, signor Duccio. Non siamo soli, per fortuna abbiamo qui con noi la co-conduttrice di questa puntata, anche leggendaria. Lei. Leggendaria. Non quanto forse Daniele Di Feo. Daniele Di Feo, il nostro direttore musicale. Lo salutiamo. Sì, lo salutiamo. È insuperabile leggendario nella sua invisibilità. Daniele Di Feo. Lei è Chiara Mascellani. Ciao, ciao a tutte e tutti. Ciao Leo, ciao Giulia. Messer Duccio, buongiorno. Grazie, Messer Duccio, adesso non esagerare. Veda Giulia, prenda appunti. Questo si chiama rispetto. So che per lei è rispetto. E se voi avete rispetto di 50 minuti di riparazioni, potete scrivercelo. Ma anche se non avete rispetto, avete anche curiosità. Se non avete rispetto e volete insultarci, la nostra mail è riparazioni@ababo.it. Per Bravo, adesso non c'è ancora Leo. Scritto nessuno. Non c'è io scritto lo dico, nessuno, però noi continuiamo a dirvelo perché ci siamo rimasti un po' male. Chiara, che è qua parliamo con noi. Parliamo del tema della è come sempre una delle nostre studentesse del corso di didattica e comunicazione, no, comunicazione didattica dell'arte dell'Accademia di Belle Arti, e è, diciamo, la responsabile di questa quinta e penultima, ahimè, puntata di 50 minuti di riparazioni, il cui tema è L'incontro. E quale quartiere migliore per parlare di questo? Eh beh, solo qui potevamo parlare di incontro. Come mai questo è un quartiere dove ci si incontra? Beh, intanto lo è, è un quartiere di incontro perché è storicamente così. È dal 1860 che tantissime persone si incontrano in questo quartiere, perché è dall'epoca che l'Accademia, l'Università di Bologna è ospite in questo quartiere. A Palazzo Poggi. Palazzo Poggi, ah, che bello, è stata sede dell'università dopo, sì, l'archiginnasio. Esatto, questo ricordiamo, esatto, per chi non conoscesse bene la storia di Bologna, ma direi di no perché ci ascoltate da Bologna. E come abbiamo proceduto per raccontare un po' la storia degli incontri di questo quartiere? Beh, proprio facendoci ispirare da questo crocevia, insomma, multi ed interculturale, sociale, e soprattutto percorrendolo questo quartiere si scopre che bar, piazze e strade sono fantastici i luoghi di incontro dove tra l'altro scoprire la vita e l'attività di tantissime persone che si dedicano a vivere bene questo quartiere. Prima e non delle lezioni, scoprire perché ci sono certe attività che vabbè, purtroppo signor, non se ne può parlare. Vabbè, signor Duccio, guarda, il suo contributo è sempre chissà inutile, cosa si riferisce il signor Duccio. Non lo capiamo mai. Per vabbè, non ve lo posso dire. Allora è meglio che stia zitto, signor Duccio. Lo dico Duccio. Solo ma per questo... dire che ho un privilegio. Lasci parlare la signorina. Ma questo è il Chiara. Classico pensiero dei ben pensanti, perché in realtà appunto questo quartiere spesso è sotto riflettori per le sue criticità. Ma lo noi sappiamo, abbiamo anche il motivo per cui c'è Riparazioni, un quartiere dove c'è tanta vita ma anche tanta fragilità. E invece abbiamo scoperto che in ogni dove si svelano un sacco di germogli di esperienze meravigliose, creative e di resilienza. Allora, siamo andate a parlare con alcuni titolari lavoratori dei bar di questa strada, i primi luoghi quando si parla di incontro qui, e chi è la prima persona che abbiamo incontrato? Beh, il primo è Dennis di Coffee and Cigarette, sta in via Belle Arti, angolo 100-300. Segnatevelo. Meraviglioso per la qualità del suo servizio. Mi chiamo Poli Dennis, sono commerciante, sono nato a Imola. Ho 40 anni e vivo qua a Bologna da oltre 20, da quando ho 18 anni, che sono appunto trasferito da un paesello qui dell'Appennino in città. Sono appunto proprietario della tabaccheria, della tabaccheria Coffee and Cigarette. E che orari di apertura fai? Abbiamo un orario di apertura dalle 8 all'1, siamo aperti dal lunedì alla domenica sempre. Qual è la cosa più bella e qual è invece quella meno bella del tuo lavoro? La cosa più bella del mio lavoro è che siamo sempre a contatto con persone di ogni tipo, di ogni estrazione sociale, ed è la cosa bella e la cosa meno bella, nel senso che oltre che i commercianti, il barista o il tabaccaio, che è un po' la mia figura, la mia vita, il mio lavoro, la mia passione, molte volte si inserisce all'interno anche un po' un lavoro di, cioè un lavoro, diventi un po' anche psicologo, quindi nel bene e nel male questa è una figura che nel lungo periodo può anche un po' appesantire magari quello che è questa bellissima professione. Tu appunto hai detto che hai aperto 18 anni fa, una scelta coraggiosa perché in realtà in Belle Arti, all'epoca Belle Arti non era come la vediamo adesso. In 18 anni la città è cambiata molto. La zona universitaria nello specifico pure, qua un tempo i turisti non arrivavano, tant'è vero che noi abbiamo tenuto chiuso per 15 anni la domenica perché era un po', qua Bologna è una città che la si vive un po' a quartieri e come tale la domenica qui non c'era nessuno. Dopodiché appunto questi 18 anni hanno fatto sì che la città vive molto più la presenza del turista, che un tempo qui in zona università non arrivava perché non usciva da Indipendenza, dal quadrilatero, diciamo, dalla T di Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi, oggi invece sono molto presenti anche qua. Ne dimostra il fatto che mentre un tempo c'era un bed and breakfast, due bed and breakfast, oggi ce n'è in ogni dove, quindi ne contano gli addetti ai lavori oltre 20. Quindi questa è la dimostrazione del fatto che c'è appunto richiesta da parte dell'utente, del turista, insomma. Non so. A chi è frequentato questo luogo? Sì, appunto, abbiamo una clientela super variopinta, nel senso che sì, lo studente sicuramente è una presenza molto importante, il residente pure, lo zoccolo duro, gli amici, i clienti storici sono una parte fondamentale sicuramente nel panorama clienti, dopodiché c'è il turista che appunto oggi fa la sua parte, cioè nel senso ha uno spicchio della torta che fino a qualche anno fa era molto più marginale. E tre parole invece per descrivere questo quartiere, visto che il quartiere negli anni è sicuramente, noi quando siamo arrivati appunto nel 2005 la zona era sicuramente molto più difficile rispetto a come la viviamo oggi. Le vetrine illuminate, la luce, secondo me, tiene lontano i problemi. Illuminato e anche divertito, perché qua vi divertite. Sì, per fortuna qua, cioè io nello specifico faccio un lavoro che è la mia vita, la mia passione, mi diverte, il tempo mi vola, con i pro e contro che appunto abbiamo appena detto. Dinamico, divertente, colorato. Beh, bellissimo, un entusiasmo pazzesco, Dennis, di Coffee and Cigarette. Dinamico, divertente, colorato. Come detto. Te, Leo, oserei dire. Proprio sulle tre me. Parole che... Beh, direi di andare... Sì, anche perché come hai detto lui, il tempo gli vola, anche a noi il tempo ci vola. Tanto che è bello fare anche il nostro lavoro, quindi andiamo a vedere, a chi sentire è prossimo, chi Chiara, è il prossimo dici. Ospite. Il prossimo è il Bal Floriano in Piazza Puntoni, quindi ci spostiamo più in giù. Esatto, ed è un bar storico a gestione familiare. Ci racconterà Floriano stesso delle sue avventure. Chi sei? Florini Fabrizio. Da dove vieni? Bologna. Che lavoro fai? Barista. E dove lavori? Via Zamboni 70. I tuoi orari di apertura? Adesso è un orario limitato. Posso dare una motivazione? Sì, anche? Sì, adesso è un orario limitato perché da quando c'è stato il Covid abbiamo ridotto il personale. Sto aperto dalle 6 di mattina alle 15 del pomeriggio. Senti, qual è la cosa più bella, ma anche qual è la più brutta, o la meno bella, insomma, del tuo lavoro? Non lo so, la più brutta diciamo che sono un po' gli orari e stare sempre in piedi. La più bella è avere dei contatti con le persone. Che persone puoi incontrare qui in questa zona dove tu lavori? Tu ci vieni da un po'. Di tutti i tipi, da qualsiasi tipo di persona. Tipo? Ho incontrato Lucio Dalla, ho incontrato Nureyev, ho incontrato il Presidente della Repubblica, ma non è che lo abbia incontrato, sono passati e li ho visti, capito? Come persone che hanno delle realtà sociali difficili. Ah. E invece quotidianamente? Quasi tutti i ragazzi, i docenti o anche amministrativi dell'università. E invece, tre parole chiave per descrivere questo quartiere. Tu da quanto tempo lavori qui? 41 anni. E quindi, appunto, in 41 anni, tre parole chiave che ti viene da dire per descrivere questo quartiere? Giovane, frenetico, e, diciamo, la terza, fedele. Fedele. Come mai fedele? Fedele perché nel senso che sono delle persone che da 40 anni che vengono qua. 40 Beh, anni, Giulia, praticamente anni. Gli anni tuoi. Ma adesso non esageriamo, manca quelli del signor Duccio forse che viene da... Come ha detto, giovane, frenetico e fedele. E fedele. Cioè, questo a lei si addice sì, particolarmente sì, bene. Io allo specchio dici. Tutte le mattine mi guardo e penso proprio... E si trova così, sì, giovane, sì, sì. Fedele, Beh, frenetico. Però non... andiamo avanti. Sì, oggi siamo un po' di corsa, però belli questi personaggi che ha incontrato il sono signor personaggi, Floriano. Sono persone. Ah, i personaggi... Beh, Nureyev, Lucio Dalla e Beh, chi? Sono comunque persone. Beh, sì, un po' più entusiasmanti di quando entriamo io e te. Pure io sono passato dal bar. Però non l'ha notato nessuno. Nessuno, signor Duccio, mi dispiace. Ancora si non deve un po' inserire. Lucio Dalla, sai chi è passato da quel bar anche? Daniele Di Feo è passato da quel tu bar. Guarda, ecco, è Daniele arrivato Di il momento di da quel parlarne. Bar e ci ha detto di mettere i My Bloody Valentine con When You Sleep. We'll be right back. e volando passiamo subitissimo all'intervista di Marco del Comics Café, che è la fantastica fumettoteca in via Belle Arti 12. Ciao a tutti, sono Marco del Comics Café. Da dove vieni? Allora, abito tra Modena e Bologna. Che lavoro fai? E da quanto tempo lo fai? Allora, nasco come grafico ed illustratore da sempre. Poi dopo, da giugno del 2019, ho aperto il Comics Café, che è la mia nuova attività di barista barra ristoratore. I tuoi orari di apertura? Dalle 7 del mattino alle 22 di sera, dal lunedì al sabato. E quindi, qual è la cosa più bella e poi, se mi vuoi dire, anche quella più brutta del tuo lavoro? Allora, la cosa più bella è che nel nostro locale abbiamo creato questa specie di comunità che evolve di volta in volta, di illustratori, disegnatori, appassionati di fumetti, perché noi siamo una fumettoteca, quindi abbiamo una grande selezione di fumetti di tanti tipi che offriamo come lettura, come biblioteca, come caffè letterario, in questo caso specializzato nei fumetti. Qual è la cosa più brutta invece? La cosa più brutta, ma i numeri sono veramente in una proporzione risicata, capito? C'è proprio un po' l'atteggiamento di tante persone, un po' che non capiscono l'identità del locale, ma quello ci può stare, perché passando... Invece alcuni, un po' la maleducazione imperante di tanti, cioè noi qui abbiamo fatto secondo me una cosa molto particolare, che è quella di offrire a tante persone di leggere dei volumi veramente particolari. Invece esiste qualcuno che tenta di rubare un libro, sta qui a sbaccare, un po' sfruttando un po' le nostre fatiche. Noi abbiamo ad esempio fuori una cassettina dove periodicamente molte persone, tra cui io, portano dei fumetti da regalare. E la gente non comprende che è una cosa di comunità, quindi arriva qualcuno, si prende tutti i volumi che trova e se ne va senza salutare, senza fare. Quindi c'è un po', in alcuni casi c'è un po' di maleducazione, non è proporzionata sicuramente alle cose belle, però se devo trovare una cosa, un difetto, è che alcuni non capiscono bene l'idea di comunità che questo luogo vuole proporre. Quali sono le persone? No, noi siamo completamente, come si dice, eterogenei, dai 90 anni ai 5. Qualcuno viene qui solo per leggere il giornale, però va bene, qualcuno viene qui per fare due disegni da appendere, e abbiamo. Sai, qui siamo comunque vicino all'Accademia, quindi sia gli studenti, sia i professori, sia le persone che vivono comunque qui intorno. Avresti tre parole per descrivere questo quartiere? Ostrega, tre parole? Tre parole. Allora, sicuramente originale. Cioè, io le persone che passano di qui sono tante e diverse, ma non dico soltanto lo studente con i capelli arcobaleno, ma dico anche il professore in pensione che ha le sue cose da raccontare. La vitalità, specialmente dei ragazzi, creatività timida. Non so come, penso che creatività timida sia la cosa vera, perché molti sono anche dei bravi disegnatori, ma fai conto giovanissimi, fanno l'accademia, però con un carattere assolutamente che io molti li adotterei e li porterei a casa. Ti faccio un esempio, il mio barista della sera è un bravissimo illustratore, però non con la... cioè tu forse non so, il concetto dell'artista è anche di essere un po' stravagante, ma spavaldo, oppure sì. In realtà non è assolutamente così, no? Si mettono lì, disegnano, li vedi, posso prendere una tavolozza per... certo, poi vedi che nascosti sotto il tavolo disegnano e fanno delle robe meravigliose. Da dove nasce l'idea di creare una fumettoteca, così si può dire? Sì, è una fumettoteca. Ok, e perché puntare sulla condivisione di questo spazio e la possibilità appunto di far disegnare ed esporre ai clienti? Un po' allora, hai già risposto. Sì, se vuoi la cosa è questa, cioè io sono sempre stato appassionato di fumetti, ho una certa età, che non diremo, io ho un patrimonio di fumetti che è mio personale, che è gigantesco. Un altro ragionamento è che questi libri sono meravigliosi, costano molto, e la loro vita personale, mia personale, di questi libri è: li leggerai due o tre volte in una vita? Poi la loro vita è finita. È un po' poco per delle opere del genere. Quindi a quel punto lì, una volta che la mia vita personale rispetto a un libro è finita, forse è tempo che qualcuno possa dare nuova vita a questa lettura. E da qui nasce l'idea, appunto, sì, di creare anche perché non so più dove metterli, in realtà. E quindi te li metto attorno a un bar? Cioè, dove li metto? Cioè, in garage non ci stanno. Comunque facciamo il caffè più buono di Via Belle Arti, non dirlo agli altri. Ti ringrazio. Tra l'altro, grazie a voi. Il caffè più buono di Via Belle Arti. Ormai l'abbiamo detto. Il caffè più buono di Via Belle Arti. Lei l'ha preso il caffè Signor più Duccio buono preso, di Via Belle Arti? Non me lo ricordo. Troppo faticoso anche andare al bar. Ora. Ma no, diciamo... però l'ho preso dalla Miss. Bar 48, no? Siamo arrivati. Via Belle Arti 48, esatto. O bar 48, tutte e due. Bar 48. Chiara, tu dici un po' della Miss. La Miss è l'amica, la mamma, la mascotte, sì, di chi frequenta l'Accademia. Perché è mitica, insuperabile, straordinaria. È il vostro posto d'incontro e sì, vale l'incontro con la Miss, andare al bar 48, vale sì, soltanto quello. Si è riusciti a strapparle qualche parola? Sì, esatto, perché è più forse un'esperienza da vivere che da registrare. Però ne diamo un assaggio radiofonico, così poi venite a trovarla. Ho amato questo lavoro e io lo amo, in quello senso. Mi piace questa via perché qui incontro i miei ragazzi che arrivano la mattina, sorridono, mi salutano, hanno i loro problemi, vengono da me, riusciamo a chiacchierare, riesco a risolvere, se posso dare il mio, riesco a darglielo. E lì quando fanno gli esami non riescono, vengono, piangono da me, io provo a tirarli su, dare il morale e va tutto bene, mi piace. Eccoci di nuovo qui con 50 minuti di riparazioni su Radio Città Fujiko. Tutti i venerdì dalle... Dalle 10.30 alle 11.30. Signor Duccio, ha provato a fare di nuovo la sua battuta preferita, ma Leo Merati con la sua prontezza lo ha scavallato. Ma non si preoccupi perché, signor Duccio... È arrivato il suo momento. Temo finalmente, proprio di sì. Finalmente. Anch'io sono molto contento. Proprio vi vedo. Ho lavorato per questo, vorrei vedere. Ha lavorato, ha lavorato. Chiara, tu hai voglia ore di sentire quello che ha da dire il signor Duccio? Assolutamente, la vedo anche lei proprio carichissima. Signor Duccio, sulla puntata dedicata all'incontro, cosa ha fatto? Una ricerca dedicata agli incontri? Sì, perché in pratica a me mi garbava quando era a Lucca, mi piaceva trovare sti posti, no? Queste chicche, queste magari scalini, panchine, dove potevo fumarmi una sigaretta e no, quando, sai quando ad esempio... Quando cosa? Quando ha tante responsabilità, che è signore di una città, no, popolo, si deve rilassare. Io andavo a cercare questi scorci dove magari c'era un bel panorama. E l'è rimasta questa cosa? Sì, allora ho detto vabbè, vediamo se anche qui in questo posto... Insomma. Ma lei per incontrarsi con qualcuno? No, basta. Non frega niente, basta incontri. Basta incontri, io sono per ogni tanto uno deve stare da sé. Magari con una sigaretta. Magari, però non esageriamo queste sigarette. E quindi che luoghi ha visitato? E quindi sono stato a Piazza Scaravilli, a Piazzetta Raviola e poi sono andato all'Orto Botanico. Beh, luoghi centrali di questo quartiere sì, che infatti stiamo affrontando. E cosa ha fatto? Una sorta di trip advisor? Sì, una specie. Praticamente sono andato lì, mi sono fumato una sigaretta, ho provato a rilassarmi, poi ho dato dei giudizi in base alla seduta, al panorama e al tipo di pausa. Ah, fatto una ricerca a modo, no, mica guardi, si frigge mia con l'acqua qui, signora, si frigge come diceva Mima. La Suma. Sì. Quindi da che cosa partiamo? Da Piazza Scaravilli. Da Piazza Scaravilli, sì. Allora, seduta? Ho messo 8, molto comoda, non è un triclinio o un frau, però insomma le gambe poggiano perfettamente a terra, largo spazio ne concede anche il completo stendimento, delle volte uno avesse questa necessità. Lei no? No, io no. Vabbè, nelle giornate assolate, grazie all'apertura del cortile sul cielo, con un pratico parasole e un paio di servitori muniti di palma, vi si può godere appieno la carezza del sole. Bello, questo signor bello. Poetico quando vuole. Lei. Panorama, invece, andando avanti, ho messo 6, perché purtroppo l'assenza di un piccolo parco ne limita la possibilità di relax, non si possono udire dolci canti di usignoli o simili, ma anzi... si è costretti a farsi devastare le orecchie dal marasma di futuri proletari, cioè gli studenti, sì, sai, quella gente proletari. Lì che passa, che corrono qua e là condividendo i loro sogni, le speranze. È una cosa bella, signor Duccio, l'università, l'accademia. Poverini, comunque, di notte invece, ecco, di notte diventa proprio un raduno di bonghi e immagini psichedeliche, quindi si corrompono definitivamente le prospettive di silenzio e ozio. Ecco, quindi lei la notte piazza Scaravilli, no. Non quindi, ce la frequenta. Che tipo di pausa? Perché, sicuramente è rapida, al massimo un paio d'ore. Beh, la faccia della pausa rapida. Sì, comunque, no, sai, è un po'... Tic-tac, la sua giornata. Un po' come quando uno è a un conclave di massoni, la servitù fa il cambio turno per il massaggio dei piedi, vi trovate tutti nel cortile della Magione e non potete sollevare la maschera di sopra della bocca se non per qualche chiacchiera di convenevoli e qualche risata sommessa. Ma lei con questi massoni ha veramente uno... sono amici. Chiaramente. Chiaramente, senta, va dal... secondo luego sì, la raviola la piazzetta raviola fulcro di riparazione, sì, seduta ha dato 7 perché comunque la panchina è una classica panchina senza infame e senza lode, buona seduta adatta a una corretta posizione lombare. È anche posturologo lei, signor Duccio? A seconda delle occasioni, ormai per lavorare faccio di tutto. Veramente. Comunque purtroppo ecco le dimensioni ristrette le limitano un po' l'uso della panchina e i servitori che vi porgono l'uva saranno costretti a stare in piedi, no, però potranno servitori? Fare a meno di sventolare le palme o le piume di struzzo grazie ai possenti alberi che proteggeranno il candore della vostra epidermide. Quindi, guardi, signore epidermide, lei continua a non voler fare i conti con la realtà, non gli ha più servitori. No, vabbè, con la sua realtà che non mi appartiene, la mia è un'altra, è per questa, fortuna, che infatti al panorama ha dato 6,5, perché è necessario trovare le panchine rivolte verso l'interno della piazza per poter rilassare i propri nervi dal marasma cittadino, su cui invece affacciano l'altra metà delle sedute sulle quali vi sembrerà di stare buttati in mezzo alla strada. Buttati in mezzo alla strada, c'è un po' di traffico, ma neanche vabbè, troppo. Per lei non sarà un problema, per me è un problema, Quindi che tipo di pausa? Beh, con un po' di astuzia e buon tempismo si può trascorrere tutta la giornata e volendo imbastire anche un piccolo banchetto per il pranzo, sa, con un risicato numero di persone, una quarantina col catering. Ricevimento insomma, di sì, nozze. La classica pausa di primavera quando i problemi del reame accrescono e siete costretti a ritirarvi una battuta di caccia rifocillante per le membra e per ma quale battuta di caccia che porta San Donato? Vabbè ci sarà qualcosa a cui sparare, no? Ma no, vabbè, non ci sono uno più la trova queste sempre, pratiche una trova si sempre. Può sempre trovare purtroppo. Passiamo al terzo luogo, esatto, l'orto Duccio. Botanico. Allora, purtroppo la seduta mi sono non classificabile. Come non classifica il luogo più sì, bello? No, ma ci sono pochissime panchine, vabbè. Uno le deve cercare, non, insomma, però se invece vi fate scarrozzare in giro con il vostro portantino, che io ancora consiglio quello primaverile o estivo con i tendaggi di lino per ma poter la Madonna di San Luca godere appieno la natura che vi circonda, ecco, in compenso i vostri pensieri saranno accompagnati dal canto degli uccellini e dal sudore della servitù. Cosa volete di più? Del sudore della servitù. Un bel messaggio, esatto, questo che panorama, infatti, ho dato 8 perché è molto bello, è suggestivo, un po' di natura, la pace dei sensi, in questo scrigno cittadino e poi come di consueto in questi luoghi finalmente potete ammirare la potenza faustiana dell'uomo che controlla e sottomette l'arrogante natura in quanto tutto è artificialmente naturale. Meraviglioso. Questo bellissimo. Veramente bellissimo. Un messaggio proprio un bel faustiano, un bel termine. Sì. Un termine che probabilmente non ho mai detto nella mia vita. Vabbè, voi non lo che avete dire... studiato voi l'università della vita. Lui ha studiato, sì, secondo studiato me, l'Accademia di Belle Arti. Di Belle Arti di Venezia, sì. Vabbè. Io ho studiato filosofia, ma faustiano, guardi, signor Duccio, veramente è un termine ma io ho fatto... un po' diabolico anche. Comunque, guardi, tipo signor di pausa. Duccio, dica. E poi... Beh, qua tutto dipende dalla forza dei vostri servitori, come dicevo prima. Se avete la fortuna di assoldare omaccioni forzuti che non vi si ribellano contro, che a volte capita, potete farvi scorrazzare in lungo e largo anche per mezza giornata all'interno del parco, dimenticandovi dei vostri doveri e assaporando i vostri privilegi, cioè letteralmente il fine ultimo dell'esistenza di chiunque o quasi, in caso di il mio, ovviamente. Che... Lei proprio ce l'ha con la natura, con il proletariato, è tremendo, signor Duce. Vabbè, uno insomma. Comunque, no. Queste sedute che portano molto relax nella sua stressata vita, sì, effettivamente sì. Hanno avuto, secondo me, un perché. Finalmente la vedo che è sulla strada. Beh, giusta. Ha lavorato molto, ho lavorato molto, ho anche fumato. Non avevo molto. Dubbi. Ha fumato anche tanto. Eh beh, per questo provare tutti questi posti ci sono stato del tempo. E questo non va bene, signor Duccio. Comunque, il suo lavoro oggi l'ha fatto. Ed ora, a proposito di incontrarsi in questo quartiere, abbiamo due ospiti qua in studio con noi, molto speciali, che sono arrivati attraversando la strada, perché sono due elementi fondamentali di Via Belle Arti, e sono venuti un po' a raccontarci il luogo in cui loro lavorano e che è a suo modo un luogo di incontri particolari. Chiara, ce le presenti? Certo, hanno lasciato per un attimo pennelli, tele e colori. Paola e Melisa, moglie e figlia di Lorenzo Benni, che dal 1971 ha gestito il bazar del pittore in via Belle Arti 26/B. È proprio qui davanti e ci hanno raggiunto. E abbiamo qualche domanda per voi. Partiamo con Paola. Paola, ti posso dare del tuo? Certo. Ci racconti un po' come è nato il vostro negozio, l'attività di tuo marito e qual è stato il ruolo di tuo marito in questa attività? Eh beh, il ruolo di mio marito è stato fondamentale. Aprì il negozio come giovanissimo per fare cornici e poi un po' alla volta ha cominciato invece a interessarsi e ad amare tutto ciò che fa da corollario e di utilità a tutto quello che è la pittura, la scultura, tutto. È sempre stato estremamente entusiasta del suo lavoro e delle persone. Allora mio marito si è proprio lasciato prendere dall'entusiasmo per questo lavoro e soprattutto anche per una correttezza nei confronti dei clienti, per cercare sempre tutto quello che poteva essere al meglio, ma contenendo i prezzi. Forse delle volte non c'è riuscito, ma diciamo che i risultati sono stati buoni nel tempo e soprattutto pieni di soddisfazione. Mi dispiace che lui manchi proprio adesso, quando oltretutto nostra figlia è dentro, in questa strada, che era una strada, ogni serranda che è chiusa era aperta con attività varie, il fornaio, i vestiti, di tutto e di più. E quindi era un piccolo borgo, veramente, spesso e volentieri delle sere d'estate eravamo fuori sotto il portico, chi portava una cosa o un'altra, una fisarmonica a suonare, molti ragazzi universitari che ancora adesso vengono a trovarci, che sono già stralaureati, genitori e così via. E quindi diciamo che il Bazar del Pittore, insomma, è riuscito a mantenere la sua caratteristica in questa strada, che è una, e sono un po' di parte, ma è una delle strade più belle di Bologna, che fa vedere anche l'anima della città stessa. Lasciamo il tempo al tempo, intanto proseguiamo con entusiasmo. Grazie Paola. E a proposito di proseguire con entusiasmo, adesso l'altra domanda è per Melisa, che da un po' di tempo, ci dirai tu quanto, perché esattamente non mi ricordo, da quanto è che sei un po' tu al centro dell'attività, ha preso in mano l'attività del suo babbo e adesso è lei che dirige tutto e manda avanti il Bazar del Pittore. Io ho una domanda da farti a proposito di incontri, visto che questa è una puntata che noi dedichiamo al tema dell'incontro in questa strada. Che incontri possono avvenire nel vostro negozio? Trovi l'appassionato, quello che fa di hobby, quello che lo fa per arrivare a livelli di vecchi maestri tipo Pozzati o Caccioni, scultori, cose così. Però avevamo Mazzali anche, Un grande. E i bambini disegnano, ci vengono molti bambini nel vostro negozio. Io ho bambini, c'ho mia figlia che fa i mini video dei prodotti nuovi che arrivano in negozio. Ti aiuta con il marketing. Sì, fa un po' di marketing, Puring, PBO, cose così. Quindi. No, no, bambini ce ne sono tanti. Bene, vuol dire che è proprio un'attività che si tramanda di generazione in generazione. Sta ripartendo. Forse il Covid, che ha chiuso molto le persone in casa, ha fatto partire molto di più la manualità, cosa che prima stava un po' scemando. C'è stato un momento che onestamente vedevo tutto tablet, computer. È vero, invece i prodotti che avete voi ritornano ad un lavorio manuale. Bene, bello. Anche nei giovani che proseguono l'arte di una volta. Una forma di incontro molto concreta. Però. Va bene, noi vi ringraziamo per il vostro racconto, per quello che avete condiviso. E vi salutiamo, tornate dall'altra parte della strada, sì. Continuiamo a vederci e a incontrarci qua in Via Belle Arti. Grazie mille Melisa e Paola. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Proseguiamo con una filone musicale per dare un tocco artistico e proseguire sull'onda di questa puntata. Ascoltiamo Quando ho incontrato te di Cosmo. D'improvviso apro gli occhi e mi sveglio, non so bene perché. Ho dormito poco più di 3 ore, adesso eccomi qui. Potrei alzarmi, trascinarmi in cucina, chissà in frigo che c'è. Potrei prendere coraggio e svegliarti, chiacchierare con te. Con te di che, ma no, meglio se continui a dormire, non venire qua giù. Il tuo sonno vale più di un respiro, tieni in vita anche me. Anche me, anche se lo so, passerà. Come passa un sabato, mi addormenterò senza più paura, ma adesso guardo dentro di me, o forse no, quanto è borghese il tuo. Questo mi vergogno un po', non so più come sto, chi vincerà, né come stavo quando mamma ha lasciato papà. Ciò che è sepolto in me ritorna su, speriamo spunti fuori qualche bel ricordo. Quando ho incontrato te, e chi lo sa, manco ricordo quando è che mi hai dato il numero. Sento un rumore, cos'è? È il camion della spazzatura. E l'edicola di sotto che apre. E qualcuno che va già a lavorare. E la grande macchina che riparte come in ogni città. Per produrre per il bene di chi tra poco tocca a me. E io che faccio? Non sono pronto. Ho chiuso gli occhi proprio come te. Ho anche imitato il tuo respiro. Forse rimpiango ciò che non ho più. Ho l'uomo che non sono mai stato. Passerà come passa un sabato. Mi addormenterò senza più paura di niente. Guardo dentro di me, o forse no, quanto è borghese tutto questo, mi vergogno un po', non so più come. Cosmo. Cosmo, ti è piaciuto? Beh sì, grande scelta di Daniele Di Feo, che ringraziamo sempre. Ciao, un bacione Daniele Di Ciao, Feo. Ciao Daniele. E mentre ci dirigiamo verso la fine di questa puntata, introduciamo quello che è il nostro ultimo ospite. Dopo un po' di incontri di persone che hanno negozi, che popolano posti di incontro di Via Belle Arti, adesso per concludere abbiamo un personaggio che ha vissuto in questo quartiere per molto tempo e ne ha studiato le caratteristiche proprio per quanto riguarda le dinamiche di incontro. Ce lo presenti, Chiara? Stefano Reyes è un insegnante, architetto e ricercatore in urbanistica che da anni si dedica allo studio dei luoghi e delle caratteristiche che questi devono avere per facilitare la socialità tra le persone. È stato presidente dell'Associazione 100-300, a lungo attiva nel quartiere studentesco, con cui ha realizzato molte piazze di vicinato. Piazze di vicinato. Una proposta architettonica, urbanistica e sociale che pone la strada sotto casa come lo spazio della mediazione fra gli abitanti di un luogo. Io ho vissuto in via Mascarella per più di 20 anni, no? A un piano terra. Cosa è successo? Che a un certo punto mi sono detto, ho sempre fatto molta vita di strada, anche con amici facevamo delle cene sotto al portico. Cioè, alla fine dell'università mi sono detto, faccio un progetto per valorizzare la vita di strada, la vita come se fosse una vita di cortile, però di vicinato. Ho proposto un metodo di riprogettazione degli spazi sociali di vicinato per la città di Bologna, in tre strade, prima in via 100-300, poi si sono aggiunte via del Borgo e via Mascarella. Via del Borgo e via 100-300 sono le due strade in cui ha funzionato bene questa cosa qua. Ed è curioso perché uno si sarebbe aspettato in via Mascarella un buon funzionamento perché c'è molta socialità. In realtà no, perché ce n'era troppa. Lo scopo della piazzetta di vicinato era proprio quello di favorire l'incontro sul lungo periodo, perché è importante pensare a chi sta usando il posto, no? Che cos'è un abitante? Quello che frequenta abitualmente il luogo, questa è la sua etimologia. Quindi un luogo che deve essere gratuito nell'uso, comodo, deve essere pulito, non deve intimorire, quindi non deve essere troppo fighetto, popolare e pulito. Sicuramente io credo che questa vita universitaria spezzettata per via delle lauree che sono diventate più brevi, percorsi che sono diventati più brevi o più segmentati, porta a un'instabilità dello studente che quindi fa un investimento diverso sulla città e non pensa di starci a lungo e probabilmente poi anche per via di questo fatto, di questo pensiero, finisce per non fermarsi in città. Tante volte riparte più presto, cioè prima. Una volta tanti studenti, quando abbiamo fatto le piazzette, ecco, il progetto delle piazzette, succedeva che la maggior parte di quelli che partecipavano raccontavano di essersi fermati a Bologna da studenti e di aver deciso di adottare questa città e si sono sentiti adottati dalla città. C'era una prospettiva di lungo periodo. Cosa che oggi non c'è. Allora, l'incontro è soltanto il toccarsi e andare via o è l'incontrarsi e l'intrecciarsi? Perché se l'incontro è il toccare l'altro e fuggire, è un conto. Allora funziona così, oggi, la città e la zona. Se l'incontro è il riconoscersi, il conoscersi, l'intrecciarsi, il creare insieme grazie all'incontro, se è un incontro di crescita, quindi di sviluppo, veramente anche di lungo periodo, allora temo che la città non lo stia più facendo e quella zona lo sta facendo ancora meno forse, per cui sì, è piena di scintille ma che poi lasciano poco sul lungo. E io mi buttai nella ricerca accademica su tutto quello che dell'ambiente urbano favorisce lo sviluppo di socialità e di incontro, dell'incontro. Una delle cose che trovai è questo famoso effetto Paguro, che è uno dei 91 delle 91 caratteristiche dell'ambiente urbano, ovvero categorie di caratteristiche dell'ambiente urbano che ho individuato, ok? E l'effetto Paguro è simpatico perché è un nome che ho dato io, ma sostanzialmente l'idea è questa. Se voi avete, se hai presente il paguro, l'animaletto, quello che al mare si nasconde dentro la conchiglia spirale, no? Lui cosa fa? Appena tu ti avvicini, appena vede un movimento fuori, lui si nasconde dentro, si tappa, ok? E l'idea mia era quella dell'abitante, l'abitante che ha bisogno, come ognuno di noi, di avere un minimo di spazio, di una piccola comfort zone intorno a sé, o almeno per qualche giorno a settimana. Lui cosa fa? Esce di casa e invece vede sempre un fiume di gente che attraversa e ingombra tutto lo spazio che c'è. E lui cosa fa? Si tappa in casa. Quindi come è cambiato l'incontro in quella zona? È cambiato in modo da è diventato un incontro molto, se vogliamo, turistico, nel senso di una persona che senza grandi legami col luogo, senza una prospettiva di lungo periodo nel luogo, cosa fa? Passa, invece il turista usa, morde, fugge o comunque consuma, sta un attimo, trova interessante una cosa e va via, senza preoccuparsi delle proprie ricadute su quel luogo. Quello che potrebbero fare sia studenti che abitanti è far nascere un'associazione di abitanti e studenti di lungo periodo sulla città, che scrivano un bello statuto in cui si dice vogliamo favorire l'abitare di lungo periodo e ragionare e scrivere tutto quello che può aiutare questo abitare di lungo periodo, perché è quello che serve a tutte e due, no? E che è l'incontro. L'abitare di lungo periodo fra persone diverse è l'incontro. Insomma, un interventone, quello di Stefano, ci ha proprio raccontato da un punto di vista un po' più teorico quello che era il tema della nostra puntata. E è molto bello, secondo me, chiudere su questa idea che l'incontro sia qualcosa che porta cura verso le cose. Leo, non ti mettere a piangere perché siamo arrivati alla fine del video. Sono perché ormai è quasi finita la puntata ed è il momento della nostra rubrica, che è Non solo birrette. Che cosa succede questa settimana dal 23 al 30... di giugno? Ormai è finito anche giugno. È finito anche giugno, è finito 50 minuti di riparazioni, ma sentiamo. Ahimè. Volete dividervele? Ve le legge un po' la Chiara, un po' il signor Duccio? Ma uguale. Vai. Allora, come dicevamo, ci sono gli ultimi 3 giorni di Open Tour, che praticamente è un evento in Accademia di Belle Arti, che l'Accademia apre le sue porte a tutta la gente che passeranno, la gente e vi diranno sì, esatto, che andranno lì e diranno ah, bello questo, bello quell'altro, e ci sono anch'io, mi potete lei lavora là. Sì, finalmente lavora. Mi potete vedere lavorare se io volete passare, fanno discorsi, due ragionamenti sull'arte, ma anche no, si fuma una sigaretta, su quel che vi pare, via. Da non perdere, a Palazzo Bentivoglio apre e inaugura Garage Bentivoglio, un progetto di arte quasi pubblica. Quasi. Lasciamo la suspense, perché bisogna andare a vedere, c'è qualcosa di intrigante. Dov'è? Borgo di San Pietro. Sì, in Borgo di San Pietro a Bologna. Invece Piazza Verdi? Piazza Verdi, 24 giugno dalle ore 19, Aldo Betto / Savana Funk alla terrazza Nouveau del Teatro Comunale di Bologna. E faranno musica dal vivo, un DJ set fino a mezzanotte e mezzo, così. Musica dal vivo, i Savana Funk sono un gran gruppo. Dalle 19 tra mica li conosco io i Savana Funk. Signor Duccio, studi un po' di più. Last but not least. Sì, no, assolutamente bisogna ricordare che il 27 giugno c'è il 5° anniversario dell'apertura del Comics Café. E gli facciamo gli auguri. Assolutamente, ciao Marco. Ciao Marco. E a voi facciamo gli auguri di una buona giornata dopo aver ascoltato 50 minuti di riparazione. Chissà sarà come siete bimpanti. Una buona giornata. Un'ottima e ci sentiamo giornata. La prossima settimana sempre qui su Radio Città Fujiko per l'ultimo episodio. Ultima puntata. Ci sentiamo con 50 minuti di riparazione. Intanto buona giornata. Buona giornata. Grazie a voi. Lucio. Ciao Leo. Ciao Giulia. Ciao.